come l'impressione di averla già vista questa scena io. Sono le 7 del mattino, è martedì però, Beh, ma ho già visto dei martedì qui. Ah, però è martedì 5 febbraio 2008, l'anno della svolta. Ah, beh, allora è tutta un'altra cosa. Sono l'Ariele, vi auguro una buona giornata e chiedo al gentile regista Spadino se può lanciarmi la sigla di questa che è la puntata 176 di Pane, Burro e Rock and Roll. Benvenuti, benvenute, vi tiriamo fino alle 9. Pane, burro e rock and roll, ovviamente per le orecchie, la tua colazione rock. E se avete la possibilità di ascoltare tutta la trasmissione, pane, burro, no? E rock and roll. Altrimenti vi tiriamo anche per la mezz'ora, per il quarto d'ora, per i 5 minuti. Siamo di bocca buona qua, Se cerchi una radio che fa roccheggiare, ecco l'hai trovata, non la cambiare. Pensa che fortuna l'averci incontrato, ogni giorno alla mattina ascolta Rock FM. Reduci dall'appuntamento di ieri in diretta, nel quale ovviamente non abbiamo mancato di incensarci per 2 ore, eravamo reduci dal primo raduno surrealista. Quest'oggi, cari miei, è il momento di puntare i piedi e guardare avanti, riprendere il duro faticoso lavoro del risveglio qui a Rock FM senza tanti lapislazzuli per la mente, anche se quelli ce li abbiamo comunque di default. Tra le varie cose di quest'oggi segnalo sicuramente la replica della prima radionovela di Pane, Burro e Rock and Roll, denominata Zorrock. In settimana, presumo nella puntata di venerdì, andremo ad ascoltare la seconda puntata, ma come promesso, quest'oggi replica della prima puntata di Zorrock, che andrà messa in onda nella prima ora di Pane, Burro e Rock and Roll. Mi spiace per voi della prima mezz'ora, non credo riusciremo a fare in tempo a sentirla prima delle 7.30, certamente prima delle 8 andrà messa in onda. Ricordo in ogni caso che se proprio non sapete come fare senza la nostra radionovela Zorrock, la potete trovare su myspace.com/paneburrofm, il nostro piccolo spazio su internet dove pubblichiamo quotidianamente stralci, spunti di Pane, Burro e Rock and Roll. Ragazzi, attenti che la macchina oggi la trovate non congelata, di più. La mia stamattina sembrava un ghiacciolino di quelli da mettere nel drink, hai capito? Però ci voleva un drink gigante per metterci la mia macchina come ghiacciolino. Andiamo a cominciare, via! Si parte con quel bel fiulin di Lenny Kravitz. Questa è Bring It On! I'm gonna fight my battle. Bring It On, il ritorno di Lenny Kravitz. Bell'inizio, grazie Spadino, eh? ottima scelta. Vi ricordo le coordinate per interagire con noi, un numero di sms 335 100 7777 e la casella di posta elettronica ariel@radiorockfm.com. Stamane vorrei iniziare con un appello, perché mi segnalano probabilmente mancanza di segnale dal versante toscano. Vedo che nel versante ligure invece siete già sintonizzati, perché lo leggo dai primi messaggi, quindi faccio appello. Milano, me stai a sentire? Milano, pronto? Quello posso controllare anch'io effettivamente. Vado di là, accendo una radio. Appello Firenze, Firenze ci sei? Me stai a sentire, Firenze? Appello Romagna, Romagna mi senti? Prova 1 2 2 1, questa è Rock FM. E sono cose che si fanno qui a Rock FM, eh? Si checca così al volo se il segnale c'è oppure no. Vi vedo belli scatenati anche stamane al nostro numero di sms, è giusto che sia così, perché la si costruisce insieme la trasmissione. Tra l'altro, dicevo, punto fisso di stamane, riprendere le redini di questa trasmissione, che con la bazza del Carnevale di Celle veramente avevamo gettato a gambe all'aria. Devo fare un po' di dovrei mettere a posto un po' questi fogli che la redazione mi getta qua sul mixer, come se io fossi in grado di capire qualcosa a quest'ora della giornata. Siamo sempre alla ricerca di musicisti rock con la bocca, anche se c'è una novità anche da quel fronte, novità che spero fortemente di farvi sentire nel corso di questa settimana, novità che si chiama AC/DC con la bocca, o meglio tutto il repertorio degli AC/DC con la bocca. ce ne saranno da ascoltare anche questa settimana. Che ci volete fare? Siamo dei mattacchioni, ci divertiamo un po' così. Si chiamano Supertramp e vi consigliano di prendere la lunga strada per tornare a casa. E può essere un buon consiglio a coloro che non sono ancora andati a dormire e che mi hanno passato la notte in giro così, con delle bocce di champagne. Dai, tornate a casa che è meglio. Non va a finire a male. Sono le 7:09, cioè dovreste anche andare a lavorare, tipo. È arrivato Freak? Bene, chiudete l'ascensore così non lo facciamo entrare. Take the long way home. bof, stamane boffonchio, maestro. Boffonchio. Sa che gli sociologi francesi definirono una generazione intera la boff generation? Ah sì, in quanto? Sì, perché loro avevano come intercalare il boff. Boff. Buongiorno, maestro Frick. Boff. Boff. Tutto bene in questo martedì mattina? Boff. Boffonchio anche come lei. Come la generazione di francesi. Un 5 di febbraio che volenti o nolenti dobbiamo affrontare. Ieri mi ha svoltato la mattinata con quella ode che aveva scritto per noi sull'almanacco del giorno che fu. Le è piaciuta? Molto, maestro. E allora senta il seguito. Una novità? Sì. Prego, senta il seguito. Nell'incertezza sì. del futuro che talvolta pare duro, sì. regalati uno stacco. Dai, ascolta l'almanacco. Non ha pace la memoria se non conosci la tua storia. E quando sei troppo distratto, ecco arriva l'almanacco. È il 5 di febbraio, non so come ringraziarla. Avessi 50 euro glieli darei. Ma sono veramente sprovvisto. No, ma guardi con calma, faccia pure. No, forse ce li ho di là, controllo. Vuole andare, prego. 5 febbraio, del 1848. Karl Marx e Friedrich Engels vengono processati per attività sovversive. Verranno assolti, sbagliato. Ecco. Perché sappiamo essere in realtà certo. due veri sovversivi. 5 febbraio del 1936 al teatro Rivoli. Rivoli. Di New York, prima mondiale del film Tempi Moderni di Charlie Chaplin. Ah, grandissimo film. Mentre nel 1953 la Walt Disney Production, cioè la Disney, certo. presenta il film di animazione Peter Pan, la storia del bambino che non volle crescere. E chiudiamo con una notizia che spesso e volentieri ritorna, pane, burro, rock and roll. Sì. Non ci occupiamo mai con molto interesse delle bombe atomiche. Sì, non ci piacciono le bombe in generale. Esatto. Però ci sono alcune notizie dell'almanacco che me le rendono più gradevoli. Gradevoli, stavo dicendo divertenti, ma non era forse il termine adatto. Infatti, nel 5 febbraio del 58, una bomba atomica viene persa dall'aviazione statunitense al largo della costa di Savannah in Georgia, non verrà mai recuperata. Ecco, se qualcuno ragazzi come sta andando, come procede la giornata? Tutto bene, avremmo solo perso una bomba atomica. Pronto, comandante? Come dirglielo? Si ricorda quella bomba atomica che stavamo trasportando? Beh, non c'è più, abbiamo guardato nella stiva, non c'è. Ha presente strano amore? Forse qualcuno è sceso a mo' di cowboy. Sì. A mo' di cowboy. Maestro, che posso dirle se non nell'incertezza del futuro che talvolta appare duro, regalati uno stacco, ascolto l'almanacco. Una bomba di poesia. I Surrender, Rainbow. Allora, l'appello è andato a buon fine. Scopriamo che tra le poche ma buone frequenze di Rock FM, buonine frequenze di Rock FM, stamane ci siamo giocati la costa toscana, perché tutti gli altri rispondono all'appello. Fa niente, tanto ve lo confesso, cioè sono gli le altre sono proprio le mie preferite, quindi senti che ha ripreso il segnale adesso, ho fatto la figuraccia da barbone come al solito. Yeah, questo è Pane, Burro e Rock and Roll. Il filo di venticello pure qui nella Milano della quale vi sto parlando. Me ne accorgo perché ci sono, non so cos'è successo, perdonate la mia ignoranza, magari qualche amico milanese mi potrà aiutare, ma Vittor Pisani qui di fronte, il vialone che porta alla stazione centrale, è tutto tempestato di tricolori italiani che sventolano, che garriscono, come direbbe il maestro, cito, vero? Che garriscono nel vento, guarda lì che roba. Bene, vedo che ha catturato l'attenzione di un amico fiorentino l'immagine che così vi ho regalato in apertura del programma, della mia autovettura talmente congelata da sembrare un cubetto di ghiaccio per un drink. E allora Yuri lancia, surreale per surreale, una nuova campagna rottamazione, la tua vecchia auto in un mojito. Sai che lavorone per piantarci l'ombrellino. E poi uno si chiede perché vi do il numero di SMS, perché siete gli autori migliori che chiunque vorrebbe in televisione, in radio, al cabaret, cioè gli autori veri sono i radioascoltatori e le radioascoltatrici di Pane, Burro e Rock and Roll. Non ce n'è. Si avvicina il momento della replica della prima puntata di Zorrock. Preparatevi, tra poco, tra una dozzina di minuti, massimo un quarto d'ora. Intanto però relax, take it easy, come direbbero gli americani. This is Rock FM. Guns N' Roses, Patient. Che sta a spaccare anche il microfono? Pronto, mi senti? Se sta bene? E facciamoci una fischiettata insieme, dai. Ciao Brutus, buona giornata anche a te. Shed a tear 'cause I'm missing you. I'm still alright to smile. Girl, I think about you every day now. Was a time when I wasn't sure, but you set my mind at ease. There is no doubt you're in my heart now. Said woman, take it slow, it'll work itself out fine. All we need is just a little patience. Said sugar, make it slow, and we'll come together fine. All we need is just a little patience. I'd rather be alone. If I can't have you right now, I'll wait here. Sometimes I get so tense, but I can't speed up the time. But you know, love, there's one more thing to consider. Said woman, things will be just fine. You and I'll just use a little patience. Said sugar, take the time, 'cause the lights are shining bright. You and I'll